Ehi mamma, amo tua figlia. Poi sta sicura con me. Don't believe in promises, cause promises can fool my belief. Mommy, I love your daughter. No gesturing, no one can make me leave her. There's no, no gesturing now. No, no, no, no. One day she's gonna be my wife. Mommy, I love your daughter. No gesturing, no one can make me leave her. It's no, no gesturing. I said, Mommy, I love your daughter. No gesturing, no one can make me leave her. It's no, no gesturing. Quindi, come dicevamo, qui a Morfaia si ascoltano dischi e questa sera, insomma, adesso vi abbiamo fatto sentire No Gesturing, Cal Malcolm, e adesso vi suoniamo il DJ style di questo pezzo di Big Youth, Natty No Jester. When a lion is sleeping, never try to wake him, baby. I hear me spin originally this on the track, on the scene, from a record machine. Tell you about a girl called Jean. Jean's mother said that she must be mad, y'all. Then I want you to get me on the scene, and I tell you that I'm not a dread, don't just stop. Yeah, and I know you're polyester. Sing at the dread, don't just stop. Move ya! No come from Manchester, and him go check me a festa. Musa Deli, don't say that, yeah. Boys. Big Youth, Jayut. Mr. Deli, don't say that. In a DJ style, nelle migliori tradizioni giamaicane. So you can tell her anything you want, but I'll never let her. Mentre il cantante disegna lo sfondo del quadro, la voce in prima persona è del DJ. Gone down a Manchester. It's not a dread, don't just singing wine is a macker and a strong drink is raging. You drink white rum and you tumble down. Not a dread, don't. Living promises, cause promises can fool my belly. A promise is a comfort to a fool, and that even want to keep you cool. I say that you should never. Natty dread don't just stop. Natty higher, Congo higher. Natty, natty Congo. Dread don't just stop. In the kitchen, Sachester. But natty dread don't just stop. Say little boy you shouldn't say that. Now little guy you shouldn't do that. Never want to follow all you never. The trouble, trouble, and a trouble round trouble you. Don't you ever. You trouble me, then Natty dread. Don't you say what you say, Natty dread, don't just stop. We no see what you see, and we no wear polyester. Oh, just we check sense in the rage of wind, and we check one view. We might do what we do, Natty dread, don't just stop. Natty dread, don't just stop. Say we go take Bruce Lee, my enter the dragon on him. Let the dread don't just stop. Let the high tile stuff. Sing Natty dread, Natty dread, Natty dread, Natty dread, Natty dread, Natty dread, Natty dread don't just stop. Big Youth ancora a Morfaia e ancora in compagnia di Miss B-Ranks. in console, alla piccola console, alla piccola ruotina di plastica, non d'acciaio in questo caso. E ancora DJ Style. So love is all I bring. So don't be like a puppet on a string. All you got to do is sing. I'm still in love with you, boy. So I say, and I will never let you go away. I'm still in love with you, should have seen me and the big fat thing. Tell her where me scrubber in a constant spring. Tell her where me dubber in a constant spring. Tell her where me lover in a constant spring. Tell her where me dubber from the big bed spring. In a me three-piece suit and thing. Tell her where me diamond socks and thing. Tell her where me earthman shoes and thing. Got me say rub off the makeup. You don't know how to love me. I wish I say not even how to feel. Girl, no one what's your nationality. Yeah. Because you broke down my door and you asked me for more. Sit down for me chair and I asked for a beer. Lead down for me bed and I draw me nothing. In the sun and I want to I'm done. Still in love with you, boy. Man, you should have seen me and the big fat thing. Tell her where me scrub up on the big bed spring. Man and them me show her me diamond ring. Tell her why she drink up a bottle of thing. Tell her where me dump up in a golden spring. And I love is all I bring. And where she bring? Three piece suit and thing. Tell her why the diamond socks and thing. Come me say, girl, how when me do I make you left me? Girl, how when me do I make you left me? Me love you all the time of my mind. Love you and no commit no crime. Girl, how when me do I make you left me? Girl, how when me do I make you left me? Man, you should have seen me in a golden spring. Tell her when me three-piece suit and thing. Tell her when me diamond socks and thing. Man, I'm gonna now say, Lena, Lena, Lena. Wheel around tonight. Let me hop up on the big bed spring. Can make you scrub up on the big bed spring. Can I wear me to you make you let. E il DJ Style ci scorre nelle vene questa sera. Ancora un altro pezzo, Trinity. Run the track, Simone. Qui a Morfaia stasera il DJ Style corre veloce. Lose respect. Say so. Miss Effie, stop from idle and read up your Bible. Stop from idle and read up your Bible. And you will get sensible. Singing said that, and you will get sensible. Mommy said you lose respect. You lose respect. You lose respect unto Jah. Him a go strike you with the lightning and thunder. Man, him a go strike you with the lightning and thunder. Me said you lose respect. You lose respect. You lose respect. You even make God vex. You lose respect. You lose respect. Yeah, the Lord God so loved the world that he gave unto I and his son. And whosoever believe in the son shall live it unto I and I and shall never burn like a piece of paper and melt like the wax that melt in the presence of the fire. Said you lose respect. You lose respect. You lose respect unto Jah. So you lose respect. You lose respect. You lose respect unto Jah. Him a go strike you with the lightning and yonder. Man, him a go strike you with the lightning and yonder. Me say, please stop from idle and read up your Bible. Stop from idle and read up your Bible. And you will get sensible. Yeah, and I come back right to the main point. Every man got to get paid according to the work they do, I would say. Me say, them lose respect. Them lose respect. Them even make that vex. Still yo, like you say, them lose respect. Them lose respect, but the lightning I go on them. Lord, and then the thunder I go frighten them. Lord, me say the thunder I go frighten them. Lord, because them lose respect. Them lose respect. Them lose respect. Them lose respect. Say stop from idle and read up your Bible. Mr. Trinity, Lose Respect. Accappottiamo questo disco e andiamo sul quello che credo sia il lato A. Lusignolo. Gli appassionati del vinile, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con una serata 100% vinyl al Centro Sociale Spartaco. Questo sabato ci saremo io, Nati G, Automasha Babylon, Mr. Rude Beat e Tuna a suonare 100% vinile. E va così, next tune. From the prison to the mouth to the cemetery, fancy you don't need already, only let me go bury. 06 49 17 50 è il numero per far tornare il pezzo da capo se pensate che siamo meglio di YouTube. Mi è sembrato di vedere una lucetta. Intanto, al di là di tutto, intanto la rimettiamo, poi vediamo se è una telefonata. More Fire, Lone Ranger, Miss Beranks. Mm. don't have the dog or nothing around the way. I feel you're not swimming and living around. Boom! I feel you're not the dog or no burial way. I feel you're not the burial. Boom! The burial. Boom! The burial. Boom! The burial. Boom! The one in the red, the very dead. The one in the black, so you dig him out, papa. You take him out of his bone, papa. Come on, man, then you bury him up and down. Strictly Channel One, un saluto a tutti gli amanti delle basse frequenze. Rude Beat, where you there? Pupa Ranger, you're too crucial. Non è uno che parla in terza persona di se stesso, eh? Ma non lo fanno in genere i DJ giamaicani. E Pupa Ranger is real, real, real crucial. E quindi raddoppiamo. Ancora Lone Ranger, Barnabas Collins. The music song. Conversation rhythm. Things. Right name, no compliment, no challenge, I would say. So you got to live good in Collins, baby. Oh, whoa. So ratting coming at the night, say around midnight, I him no come, fee broke no fight. Rat me say in coming at the night, say around midnight, I him no come, fee broke no fight. Girl, I beg you, out the light, lock your door tight. Barnabas a come figure take one bite. It was a dreadful sight. Oh, him bite sister right. You should have hear she born. I beg you take time, Barney. Rat, I beg you take time, Barney. Me say rat 12 o'clock. Barney come out of him box. Him eye get red and him ear start dread. Him teeth get long, man, him start feel strong. When him forward pan the scene, you hear a girl start scream. I beg you take time, Barney. Rather beg you take time, Barney. Can me say fit out the kangle. Take off your bangle. Turn your neck pan the right angle. Girl, out the kangle. Take off your bangle. Turn your neck pan the right angle. Him a the best in a re business. Bunny chew your neck like a Wrigley's. Bunny a the best in a re business. Bunny chew your neck like a Wrigley's. Say Bunny this a gwan like him aristocrat. Another time him this a come in a the farm of a bat. Him fly in a the town, say my seeker come around. Another time him disappear in a one tall black goat. Come in a the town, figure out a young. Him a the prince of darkness. Fanny a the prince of darkness. Say rat him gone up at the chapel figure check sister Lord. But where him really want is just a pint of blood. Say Barney is not a ref or a cricket umpire. Say Barney is a wicked and dreadful vampire. Take time Barney, rather beg you take time Barney. I thirst. The music sounds called, the bandos callings I would say. Right them come to make enough challenging Collinswood baby. Coming every night, say around midnight. Coming every night, say around midnight. A rim no come, fi broke no fight. Rada him no come, fi broke no fight. Yeah, me say fi out the light. Lucky roar tight. E allora una mano in aria per chi... per chi non ha mai sentito Barbara Jones, che io mi ricordi, no, e sono due, sono tre, e sono tre su quattro. D'altra parte la quarta è la DJ, per cui era il minimo. Oltretutto si chiama Jones, si chiama Barbara. Io non l'avevo sentita, però già leggendo Slim Boy qualcosa mi era venuto in mente. Mentre la rimetti da capo, no? Stavo proprio per dire prima di sentirla che in genere sono i Slim Boy che dicono alle ragazze fatti fatti cicciottelle tranquilla che mi vedi magro, ma io te reggo. E il ritmo qua è quello proprio di ehi fatti boom boom. Quindi trattasi di Counteraction. Rewind Barbara. Cool. You didn't look like a mouse on a $1 bread, but you look like a hog in a deep distress. Empty barrel, make the most nice. Empty barrel, make the most nice. All the time you were bragging and boasting, you couldn't cool your dumpling. You couldn't cool a dumpling. Una serie di formule verbali in patua in qualche modo mi impediscono di capire tutto il senso, però mi sembra che lei dica fammi vedere, insomma è speranzosa nelle capacità di sollevamento di questo Slim Boy. Miss Fatti Fatti, anzi era un pezzo molto sentito anche in Inghilterra. Every day you give me plepsy, plepsy. Anche dai rude boy inglesi. Oh yeah, Miss Achin, boy you feel send the right thing, I'm Miss Achin. Boy you feel send the right thing, I'm Miss Achin. Boy you feel send the right thing, every man if you get up in the supermarket. All I see is flour and biscuit. Me can't get no flour in a brown paper bag. Say all I see is the plastic bag, Miss Achin. Boy you feel send the right thing, I'm Miss Achin. Nobody can take. Can make the dance rum like a yellow man. Su questo ritmo chiamato M16, che suona un po' come una mitragliata. Shang lang a picky pie pie, a picky picky pie pie po po. A miss a chin, boy you fi sell the writing. A miss a chin, boy you fi sell the writing. Him have one daughter, she name Ting Ling. Hey, that the girl live a constant spring. Me make love to her, yeah she start sing. Ung lang shang lang, ung lang pie. Yellow man darling why? You be the husband, me be the wife. I love you till the day I die. That a Sanjali, Sanjali. Me make love to her, she a go like Chinese. I'm fong ching fong, yellow man kiss me. Ah, slang dang dang dilly dilly. Do it. Ah, slang dang dilly dang dilly. Murderer. Un murderer yellow man, Mr. Chin. Da poco avevamo letto proprio di un documentario che parla della comunità cinese che era stata in qualche modo trasportata in Giamaica. E non ricordo il titolo, però insomma diciamo che il pezzo di Yellow Man era qualcosa che ispirata a questo fatto, non so, ho cercato maniere migliori. D'altra parte lui DJ è un po' slackness, l'ha riportato nel suo piccolo, nelle storie un po' d'amore. Come on, can you go sweep this a seed well clean? Come on, can this a M and this a M16? How if me say, your hands and your heart it up if you're unclean. Your hands and your heart it up if you're unclean. To rally around Zilla, see gold and green. Can M and this a M16? Come on, can this a M and this a M16? E mi sono perso un po' sulle storie, sull'approccio di Yellow Man alle altre culture, in qualche modo sempre lì va a finire. Mentre intanto Barbara mi è didattica e, avendo parlato di M16, ha messo proprio la title track di questo rhythm, sempre con Lone Ranger. Fans now no see me, can't rock and come in. I make this down for the team called the M16. I'm from the style. Robin, sister Jean, Robin. Robin, sister Jean, Robin. Got Emma, this a M16. Come on, count this a Emma, this a M16. Come on, be young girl, sweep this a seed well clean. Come on, count this a Emma, this a M16. How if me say, your hands and your heart it up if you're unclean. Your hands and your heart it up if you're unclean. To rally around, see la see gold and green. Got Emma, this a M16. Come on, count this a Emma, this a M16. Come Mr. Pastor, you be past the bush master. Come Mr. Pastor, you be past the bush master. Cause sister Pam, you better bring me M1. I tell your sister Gina, you be bring me magazine. Cause tell your gang, cause if I this a seed well clean. I tell you this a M and this a M16. Cause this a M and this a M16. Cause if your shirt don't clean, your pants not no seen. Your booty lily, me say fi rock can come in. Cause anything me eat it up fi ice gold and green. Me beat you, me aki and green. Come on, can this a M and this a M16. Come on, we young go sweep and this a seen well clean. Boom! And some a fire SLR, some a drink on the bar. Them fire mark and no, but me still not gonna run. Them fire go chopper, say chat to them proper. You eat like the fish, you coulda eat up snapper. Come on, this a M and this a M16. Come on, we young girls, keep on this a seat well clean. Caropin, sister Jean, Ropin. Caropin, now with the M16. I tell you, sister Jean, you better bring me magazine. I tell you, this a M and this a M16. Me say, the boy never low, the boy never ramp. The boy never low, me say, the boy never ramp. In fire, M16, the thing I get ramp. And if I never duck, I could I get ramp. TM and is a M16. TM and is a M16. A Robin, sister Jean, Robin. Car Robin, sister Jean, playing round pain. Say them killing out the woman and them killing out the man. Them killing out the woman and them killing out the man. Now them stamp on the young generation. Say that them stamp on the young generation. Say in a time like this, me say no matter with no wrong. A time like this, you want to stand up strong. I am on this a M16. Come on, we young girls, give her this a seal well clean. Me say the time when the river run dry. The whole of them a bow down to Selassie. Me say the time when the river run high. Say none of them no member Selassie. So me say Selassie in the dark. Selassie. Me say Jah in the dark. Jamaica, terra di sesso, abbiamo nominato Yellowman, terra di armi, perché oltre tutti i cazzi che già ci aveva avuto è stata pure un po' di passaggio di armi tra la Colombia, il Sud America e l'America, e queste armi ogni tanto venivano abbandonate e quindi i giamaicani mettevano da parte il machete che era la loro arma prediletta e affrontavano le questioni anche con automatic pistol. Rasta no feeling something a bang around. No bang, no bang. Rasta no feeling something a bang around. No, no, no bang. No, no, no bang. Rasta don't need a 4-5 in his hand to show the whole wide world he's a Rasta man. A Rasta don't need a bomb in his hand to show the whole world he's a Rasta man. He only need his Bible, good meditation, and give thanks and praise to the Holy One. And make a plan, believe Babylon. And if you don't do that, it's going to bring a bam bam. Yes, Rasta no fi mix up in a bangarang. No bang, no bang. Rasta no fi mix up in a bangarang. No, no, no bang, no bang. You never live to see a true Rasta man with a free bass fight in his hand. You never live to see a true Rasta man with a cocaine pipe in his hand. You will always see a Rasta man dealing a split, always challenge in his hand, and giving thanks and praise to Almighty One, who is the kings of kings and this land. So Rasta no fi mix up in a bangarang. No, no, no bang. No, no, no rang. Rasta no fi mix up in a bangarang. No, no, no bang. No, no, no rang. If you are good, try to be better. And if you are better, try to be your best. But he's not south, we round to the west. Go tell the whole wide world, General, he's the best. Because Rasta no fi mix up in a bangarang. No bang, no, no, no rang. Rasta no fi mix up in a bangarang. No, no, no bang, no, no, no rang. You'll never live to see a real Rasta man with a 4-5 in his hand. You'll never live to see a real Rasta man Tagwini in his hand. He only have a Bible, good meditation, and walking up and down, and God Almighty land. Only have his Bible, good meditation, and walking up and down, preaching and judging. What a bangarang, soprattutto dall'altra parte dell'acquario. No, no, no. Un saluto a Tiziano, no, no, Letizia Farai, no, no, no, Miss Enrica, Luis Enrique direbbe Gianni. E the mighty boss Fefe. That's why Rasta no for mix with politician. Parente di qua, chiamiamo i numeretti ogni tanto. Tra poco sarà il turno di politician. Politician. A politician will use you and abuse you and then turn around and crucify you. He will put a gun in your hand and send police and kill you and take the gun back out your hand. That's why Rasta no fi mix up in a bangarang. No bang, no rang. Rasta no fi mix up in a bangarang. No, no, no bang, no, no, no rang. You'll never live to see a real Rasta man with a free bass pipe in his hand. You never live to see a real Rasta man with a cocaine pipe in his hand. But you will always see Rasta man with his chalice, arrows stiff in his hand, giving thanks and praise to the Almighty One who is heard. Pieni di ridondanze di stili stasera sotto le mani sapienti di Miss Biranks. Un saluto quindi chiaramente a Germana. Still Germana 1, Germana 2 e a tutte le germane che hanno accompagnato Barbara in questi anni. Un benvenuto a Giorgia. And I'm nothing with it, I hide. For everyone know that everywhere you go, you hear people say, Tom shot the bomber. Over there you hear they say, Tom shot the bomber. The young know that, the old know that, everyone know that they say, Tom shot the bomber. Him shot the bomber. Tom. Doctor Alimentado. Shot the bomber. Tom shot the bomber. Him shot the bomber. Tom shot the bomber. Him shot the bomber. He pulled the 38 from his waist last night. E un grandissimo saluto a Fabio Gioca. With his pistol by his side. Yeah. Tom shot the bomber. Last but not least. Tom shot the bomber. Sarà lui stesso a salutarvi tra poco. Nella sua rubrica. I'm Shaggy Baba, Ali Baba. He rode to the valley with the 38 in his waist. Yeah, he pulled the 38 from his waist and shot the Baba. Yeah, I said, Tom Shaggy Baba, him Shaggy Baba, Tom Shaggy Baba, him Shaggy Baba. Mercy, y'all. So he leaving on the dread to grow, as I would say. So not the judges are flourishing on earth these days, I would still say. Yeah, yeah, yeah, I know. My dream last night was about Alibaba. Dun, dun, the papa's done. Shot the bomb and away he run. Look at that, and Tom was a ballad, and he should love the Baba, cause he's also a ballad. Now look at that, let me tell you, say, Tom shot the Baba, and he's a ballad, and the Baba is a ballad. I says him, leave the natty dread, they flourish now, leave natty dread, they flourish now, leave natty dread, they flourish now, leave natty dread, they flourish now. Pulled the 38 from his waist last night, I tell ya. And he shot the Baba in his head, I tell ya, last night. Yeah, Tom shot the Baba. Ah, oh! And listen to this. Dreadlock, and at the dreadlock. È il momento di ricordarvi, oltre al numero di telefono 46 06 49 17 50, di sostenere in ogni sua iniziativa, anche e soprattutto quella a voi gradite, la radio, Radio Onda Rossa, partecipando alle serate, ma anche passando in radio ancora, anche se siamo abbastanza in là col tempo, abbiamo le scarcerande. Partecipate alle iniziative, soprattutto andate a leggere sul sito www.ondarossa.info su come sostenerla, perché dovrebbe esserci anche un link PayPal, addirittura PayPal, mi dicono che PayPal è il sito sbagliato, PayPal è quello gagliardo. Rimettiamola da capo, Altonelli Studio One. E questa gliela dedichiamo a Gianni di cuore. Big up yourself, Gianni. Stand for dominate. to guide over you. There will be no mumbling and grumbling, 'cause I will take good care of you. 'Cause it's been a long time I hadn't a care unto you. Now the time has come that I'm right here with you. Ciuna dopo ciuna, come si dice, andiamo avanti qui a Morfaia come ogni martedì sera dalle 23 all'una. Prossimo pezzo, Bitty McLean, e questo ci piace tanto, allora dedicato a tutti i sound boys and sound girls. Now clap your hands and stamp your feet, this happens to be a treat wild treat. Io te la richiedo da capo, e però l'annuncio con un piccolo disrespect, diciamo che è la scusa più stronza, no? Cioè non è proprio, non pensare che se mo ti sto accannando e che non ti voglio, e non pensare, come ti hanno detto, che c'è qualcun altro. Ti devo dire la verità, è che mi sto innamorando troppo e quindi devo scappare da quest'amore. I'm gonna walk away from... Tutti sentirete me presi in... chiamati in causa questo pezzo, ma perché tutti siamo stati almeno una volta coinvolti in questa dinamica. Now clap your hands and stamp your feet. È bello che inizia con clap your hand, batti le mani, ma vedi, bravo, eh? Proprio la scusa più strana. This time I'm playing it. take everything to stop me walking out that door. See your arms, then you got around me. Will let me go someday. Please, ladies and gentlemen, welcome. Make me introduce you, Mr. Gioca. Ciao. Ciao, sono Fabio. Sai che stasera presentiamo una nuova rubrica in questa trasmissione che si chiama L'omonimo ospite intervista l'omonimo presentatore. Come è iniziata la tua avventura con questa musica? Il mio primo pensiero è stato che tocca trovare un Gianni pure per la prossima. È vero, beh, si trova, dai, Gianni, il nome comune. Niente, ho iniziato così, quasi per gioco. E soprattutto la prima volta era gratis. Quasi per gioca. Quasi per gioca. C'è entusiasmo nell'aspirino. C'è grosso entusiasmo. Il tuo mix di medicinali fa effetto questa sera. Ho iniziato ad ascoltare, poi ho iniziato a volere. A auscultare. Senza guardare, dimmi che. Questo, occhi chiusi, occhi chiusi. Vai, vai. Mi ero preoccupato per il piatto, senza guardare, senza guardare. Per la puntina. Come dirti? Oh, devo dire. Però penso ad altro in realtà. A quello pensavo, pensa un po' la verità. Non mi ricordo il titolo, però era In a Different Style, sempre Junior Marvin. Questo pezzo perché in qualche modo era pertinente con la tua domanda, Fabio. Era pertinente? Era per me, però era anche pertinente. Niente, che perle stasera. Perché Fabio. Comunque l'avvicinamento al reggae dal punk un po' è stata anche la mia idea. Perché vieni dal punk? Vengo dal punk, perché mo con la metro C c'era proprio punk, onda rossa era fermata. Saranno 2 o 3 fermate. Vengo da punk, no, però comunque sì, il passaggio è stato dall'hard rock, dal rock and roll, forse anche quello, tra gli rock ascolti. Rock and roll suonato o ballato? Rock scritto. Ah, scritto. Rock, okay. Rock and roll. Più roll al tempo, devo dire, okay. Molto roll. Molto roll. Molto roll, dopodiché rock, proprio rock, rock. E l'aggancio qual era? Che questa è la base su cui c'è Police and Thieves, che è famosissima cover. Un buon ponte. Portata alla ribalta da Joe Strummer insieme ai Clash. Questo è Junior Mervin o Marvin a seconda delle stampe. Chitarrista. Anche chitarrista, no, Junior Mario. Aiutami, sì. Probabile, sì. Probabile chitarrista. Beh, un po' tutti. Io credo chitarrista anche con i Wailers. Un po' tutti. E su cantanti. Questo chiederò l'ammiccamento di Roberto. No, il discorso è che. What you gonna say? Eccomi. No, dicevamo che tra l'altro un po' tutti i cantanti già magari sono chitarristi, poi c'è quello più bravo e quello meno bravo, però. Quindi ho fatto la paraculata. Eh sì. Bravo. Ma non tutti sono batteristi, non tutti i radiofonici sono batteristi. No, e non tutti gli ascoltatori sono percussionisti. C'è Elisa che si sta bevendo il Monte Pulciano in questo momento. Un saluto ad Elisa. Non ci ha raggiunto. Laggiù sul monte col Pulciano, col Pulcino. E un saluto soprattutto alla Drop a Line, mentre do il tempo a Barbara di rimettere a capo il pezzo che gli ho tagliato. Alla Drop a Line Band, dove milita appunto l'omonimo intervistatore. From the top until the very last drop, dalla cima fino all'ultimo giro di disco questa sera insieme a Miss Biranks. Che finalmente si riaffaccia con noi in radio per quella che sarà una stagione splendida. Tanti amici quest'anno. Quel rumore era. T'ho beccato proprio il rumore dello sbocciamento. Barbara ai piatti, al microfono, Fabio alla birra. In Adissia time. Lo sai, no? Lo so. Mentre c'è il grosso punk qui in radio. Guess who's coming? Lo facciamo in diretta. Sì. Niente. Un ospite a sorpresa a breve. Mi affaccio. Già affacciati. Non saremmo mai così ingenui di questi tempi a non affacciarci. Sì. Rewind, Bobby. Che è molto paziente con noi che ci facciamo le chiacchiere. Babylon, the queendom is falling. Rahab, Ethiopia is calling. Babylon, your queendom is falling. E il tempo scorre veloce qui a Morfaia. Poche tracce ancora ci restano da suonare insieme stasera e poi ripassiamo la palla a Roberto. Me gold, me ruby and me diamond. Cause Babylon, your queendom is falling. And Rahab, Ethiopia is calling. Send I sons and daughters from afar. Send I sons Circolari, ritorniamo a Peter McIntosh. Noi torniamo agli ultimi dischi, preparatevi, Midnight e oltre Ravers, che a breve Roberto riprende il controllo qui, eh? Attenzione. E allora su questa traccia noi vi salutiamo, vi diamo un caloroso abbraccio, una buonanotte, un saluto e a presto, al prossimo martedì. Lasciamo la palla a Roberto. Paolo Roberto. Oh mamma mamma, you got me living on the front line. Oh mamma mamma, you got me born in the wrong time. Ah yeah, yeah, oh yeah, oh oh oh yeah, yeah, oh yeah. E quindi ancora more fire adesso e per un po' insieme a Roberto. Per adesso da Fabio B e Barbara è tutto. Rimanete, stay logged, stay tuned. Non girate quella manovella. E continuate a vivere in the front line. with me, living on the front line. Oh mama, mama, you got me, living on the front line. Me no want no bloody money, me I go talk about what I see. I don't want your bribery, me I go talk about what I see. Me no want to go America, oh me no want to become big star. Me no want to take cocaine, oh to go broke up my brain. Oh mama, mama, you got me living on the front line. Oh mama, mama, you got me living on the front line. Oh, I say yeah. Ebbene, ringraziamo Sister Barbara che ci ha fatto insomma ballare per questa oretta con vari pezzi tune esclusivamente su vinile. Ultimo, non in ordine di tempo, Eddie Grant, insomma, che è sempre un piacere ascoltare. E adesso dal caro vecchio vinile purtroppo ritorniamo al caro vecchio YouTube e ripigliamo il nostro giro alla scoperta del dub inglese. Ci eravamo lasciati con Oxford, la città universitaria per eccellenza del regno di sua maestà, ma anche la patria degli Zion Train, di cui abbiamo sentito prima War in a Babylon, che insomma quest'anno è stata cantata live dagli stessi Zion Train all'ultima edizione del Renoiz, che insomma si ricordavano i 10 anni dalla morte di Renato Biagetti. Adesso ci trasferiamo a Londra, un po' la capitale per eccellenza della musica dub attuale, e infatti iniziamo subito con un sound system storico. Vi dico solo che è da 25 anni che è ospite fisso al Notting Hill Carnival, il più importante evento legato alla musica e alla cultura non solo giamaicana ma di tutto l'area caraibica del mondo, che si svolge a Londra l'ultima domenica e l'ultimo lunedì del mese di agosto in occasione del Bank Holiday. Tornando ai Channel One, che vi posso dire? Vi dico solo il nome del Selecta, Mick Dread, e dell'MC Rascaileb. Hanno suonato dovunque, dall'America alla Nuova Zelanda, e soprattutto sono anche ospiti fissi, oltre che del Notting Hill Carnival, come prima ricordata, anche della University of Dub. Probabilmente diciamo la più grande istituzione che esista a livello mondiale del panorama dub internazionale. I Channel One sono venuti moltissime volte anche in Italia e hanno suonato l'ultima volta sabato scorso per i 20 anni di Ascatasuna, il più famoso centro sociale di Torino, che il 16 novembre prossimo compie i 20 anni di occupazione. Ai compagni della Ascatasuna io vorrei dedicare, che porti avanti ancora le lotte, prima di tutto quella legata al movimento Notav, io voglio dedicare questo pezzo qua, che è un pezzo che si chiama Each and Everywhere dei Channel One, dove c'è Rascaileb che ha una voce potentissima. Ecco a voi. Yes, I am. Give I some praises unto the Almighty. Give eyes and praises unto the Almighty eye. Lord mercy, give eyes. Lord mercy, give eyes and more eyes and more eyes. Each and everywhere me say the king is there. Say each and every place me say the king is there. Each and every corner say the king is there. Each and everywhere. Each and every wind in the sun, in the moon, me say the king is there. In the stars, me say the king is everywhere. In the universe, say that the king is everywhere. Each and everywhere, each and everywhere. In your body, in your mind, say the king is there. In your heart, in your head, say the king is there. Each and everywhere, each and everywhere. Each and everywhere, me say the king is everywhere. and I your body, say that judge and I your feet, judge and I your chest, me say that judge and I your mind, yo. Everywhere I may say each and everywhere. In Europe I say the king is there. In America I say that the king is there. In Jamaica I say the king is there. In Africa I say that the king is there, yo. Everywhere me say the king is everywhere. Everywhere me say the king is there. When you're feeling high, you're feeling low, yo. Everywhere me say the king is everywhere, ja. Everywhere me say the king is there. Each and every place me say the king is there. In each and every corner say the king is there. Each and everywhere, each and everywhere, ja. Rastafari. Ebbene, abbiamo avuto il piacere di sentire un gran pezzo dei Channel One, Each and Everywhere. Avete potuto ascoltare soprattutto la voce di quel MC chiamato Rascaleb, che insomma considero uno degli MC migliori del panorama attuale legato alla musica dub. Londra però, rimaniamo nella zona di Londra, perché? Perché c'è un altro grandissimo produttore, cantante, insomma ingloba un po' tutti gli aspetti legati al mondo della musica, che è Abba Shantyai. Che possiamo dire anche qua? È un altro importantissimo ospite del fisso del Notting Hill Carnival e dell'University of Dub, attivo dall'anno 1990 nella zona di Brixton, la zona più importante, più conosciuta, dove vive la maggior parte degli immigrati che vengono dall'area caraibica. Abba Shantyai è un mito, è uno di quei cantanti che non si può non conoscere se si conosce la musica dub, ed è talmente famoso che ha deciso, insomma sta facendo entrare in questo mondo musicale anche il figlio, Shantisila. Di origine antiguana, delle isole antiche, sono una piccolissima isola che stanno nel mezzo del Mar dei Caraibi. Nelle canzoni di Abba Shantyai, diciamo, si sente molto questa influenza, come possiamo dire, esotica, caraibica. Uno dei pezzi più belli mai scritti da Abba Shantyai, appunto Positive Vibration, un pezzo in cui si sentono molto le culture, l'influenza musicale della zona caraibica su questo cantante. E niente, adesso ce l'andiamo a sentire, perché insomma è veramente anche qua sentire delle buona buona musica. Thank you. E niente, Abbascianti ammaglia sempre, è un cantante che riesce proprio a trasmetterti una positività con i testi delle sue canzoni e soprattutto i suoi ritmi, che per me è presente in pochi altri esponenti della dub inglese, soprattutto attuale. Il prossimo 2 dicembre, per chi volesse, c'è la possibilità di vedere Abbascianti in live qua a Roma. Basta andare al The Frag, un locale al Tufello, dove insomma verrà montato anche un grande sound system con Dabbas Sound e Ital Skunk, due esponenti della musica dub italiana, che insomma tanta roba. Rimaniamo sempre nella zona di Londra e adesso andiamo a toccare uno dei due più importanti sound system mai costruiti. Stiamo parlando del Jatabbi Sound System, che insomma piglia il nome da uno storico esponente della prima early roots dub, vale a dire Jatabbi. Il sound è stato fondato nel 1971 e con quello di Jashaga, altro storico esponente della roots inglese, rappresenta uno dei sound più vecchi che sono ancora tuttora, diciamo, in circolazione. Che ha collaborato con tantissimi artisti, e per farvi capire di che cosa stiamo parlando, ho scelto un dub plate della Jatabbi, appunto, Sound System, che è anche una etichetta discografica e che è stato fatto con i Roots Squad, e il pezzo si chiama Al Trouble Sometimes. Vedevo nell'altra stanza là Fabio che annuiva, e quindi spero che gli sia piaciuto il pezzo. Mi fa piacere che un signore, anche la buona Barbara, apprezzino le ciunche scelgo, lo stesso Simone. Adesso rimaniamo sempre nella zona di Londra e parliamo del sound system, che secondo me è il sound system per eccellenza, come il suo fondatore e tuttora, diciamo, proprietario, Jashaga. Jashaga è un cantante a tutto, cioè dovreste vederlo durante un live per capire chi è veramente Jashaga. È un personaggio unico, inimitabile, conosciuto in tutto il mondo. Ho visto anche dei tour che ha fatto, per esempio in Giappone, dove è stato accolto veramente come una star di fama internazionale. Anche lui ha un figlio che ho avuto il piacere di vedere, che è Young Warrior, e sia Shaga che Young Warrior, insomma, li potrete ammirare anche in tutti i festival del panorama dub che si tengono in ogni parte d'Europa e anche del mondo. per onorare questo grandissimo personaggio ci andiamo a sentire un pezzo che è stato scritto, da cui piglia anche il nome un film del 1977 che si chiama appunto Babylon, musica di Chaka, canta Johnny Clark, uno dei più importanti cantanti che del panorama roots attuale praticamente. Adesso ci spostiamo leggermente fuori dal perimetro della città di Londra e ci andiamo a finire a Croydon, che è un po' un piccolo paese più che altro nel cosiddetto hinterland londinese. E qua chi si è formato, chi è venuto fuori del panorama roots mondiale negli ultimi anni? Un produttore come niente meno come Matt Professor, che insomma è attivo dal 1979 con il suo mixer e con qualsiasi strumento a sua disposizione, anche una bottiglietta d'acqua mezza vuota, mezza piena, riesce a creare un qualsiasi tipo di suono che poi riesce a mixare in maniera pazzesca. È stato fondatore anche di una vera e propria etichetta discografica, la Riva Sound, ed è stato uno dei pochi musicisti del panorama dub internazionale a suonare con altri gruppi che erano al di fuori del panorama della roots dub. Un esempio su tutti, i Massive Attack. Noi adesso ci andiamo a sentire di Matt Professor un gran pezzo che è stato appunto prodotto con la Riva Records e che ha cantato col musicista Maccabee, Warrior Style. Style ya comfy, break down the barrier. Them ya style ya make no wicked can't tarry ya. Them ya style ya man them powerful and talawa. Them ya style them are the real vibes carry ya. Operate and bring some more face over ya so sir. You can't take it then I you me sorry for. Cause them ya style ya name the warrior style. Dang dang diggy diggy dang dang this a warrior style. Had the music of the king, certain forces it a bring. When you sing from them rhythm, no foolishness you can't sing. People moving, people grooving, people stretching every limb. Some are stepping, some are skanking, chuck it better than the gym. Giving eyes is unto him, the ever faithful and living. Every sound of the drum you hear, it is an African thing. Fighting against the system, not gonna stop until we win. If you a warrior, then step right in. God is a warrior style. Dang dang nigga dang dang dang, this a warrior style. I have Bingy Natty Congo warrior style. Listen Maccabino with the warrior style. Cause them your style ya make you dance like a warrior. Jump and prance like a warrior. Come and make we move like a warrior. Then you waft the groove like a warrior. Cha cha. Them a run, see the wicked a run, see the wicked a run. When the warrior come, when I come, with a knife, when I come, with a gun. We come with truth and right, and a fire for bun. Sound the cymbal and beat the drum, cause the warrior style has just begun. Ganja we bun, we no wanna run, keep your Babylon fun. Cause we no want none, chuck we not ease up and we not go done. Not go down till the buckle is one, and the table a ton. And we not go done, hear the lyric, them a run right off of me tongue. So we talk to the old as well as the young. We give thanks for the moon, stars and the sun. With the breath in my lung, that's oxygen. We a bring your kingdom come with the warrior style. In the Congo Nati warrior style. Aya in the Kunta Kinte warrior style. Bene, siamo ancora in diretta qui dalla redazione di Radio Onda Rossa, 87.9 frequenze medie di tutte le radio di Roma e della provincia. Torniamo questa volta, adesso ci spostiamo a Reading, che è una piccola città, una zona dal sud-ovest di Londra, perché qua sono nati, durante il nostro viaggio insomma che stiamo conducendo all'interno del Regno Unito per farvi conoscere i migliori esponenti del panorama dub attuale. Vi dicevo, ci troviamo a Reading, che è questo piccolo paesino nel sud-est di Londra, e qui nel 1991, per idea del bassista e compositore Steve Swan, sono nati i Revolutionary Dub Warrior. I loro concerti sono dei veri e propri live. Adesso tutti e quattro i membri attuali del gruppo diciamo si cimentano anche in suono di percussioni e batteria, e riescono a ricreare in maniera quasi perfetta, tramite un vero e proprio live, le migliori sonorità dub elettroniche mixate tra di loro. per farvi capire di che cosa sto parlando, perché una cosa è molto, molto meglio sentirla più che parlarne, soprattutto quando si tratta di ambito musicale, secondo me, vi faccio sentire un pezzo che si chiama Warrior, che appunto è stato scritto dai rivoluzionari Dub Warriors più o meno nel 2007-2008, non mi ricordo. Comunque è un gran pezzo e spero che vi piaccia tanto anche a voi. Avete sentito la musica dub, molto molto anche stile elettronica, vabbè, d'altronde in quelle zone là l'elettronica migliore di adesso che si possa sentire in Europa suppongo che sia ancora quella inglese, quindi insomma hanno ben ragione di farsi ispirare anche da quest'altro genere musicali, rivoluzionari Dub Warriors, se poi i risultati sono questi. Adesso ci spostiamo nella zona di sud-est, non è proprio una vera e propria città, ma è più che altro una regione dell'Inghilterra, l'Inghilterra del sud-est, il West Country. Non posso dirvi da dove viene il prossimo gruppo esattamente, cioè non posso dirvi da che città provenga, vale a dire gli Alpha Step, il nome del gruppo, perché non lo sono riuscito a trovare nella mia ricerca, però questo gruppo è Insomma, molto, anche questo è attivo adesso, c'è uno studio di un'etichetta discografica che è la Steppa Style, con forti anche qua influenze di elettronica, e lo studio di questa etichetta è stato aperto in una zona centrale di Londra, anche dove il fondatore e produttore di questo gruppo Alpha Step è insomma abbastanza conosciuto. Ho avuto modo di vederlo al Dubstone lo scorso agosto nella splendida cornice, diciamo, del Parco del Cilento, e devo dire che ha avuto il suo perché. Questo è Alpha Steppa con Skin Cans and Dub. Scuso con tutti gli ascoltatori per la qualità del sound e soprattutto dei bassi, però ecco, insomma, mi dovete credere che questo gruppo sentito dal vivo con un buon sound system è veramente tanta tanta roba. Dopo, diciamo, questa breve parentesi legata alla scena electro dub, io la chiamo così dato che mischia sia sonorità elettroniche che appunto sonorità dub, ci spostiamo a Bristol, che abbiamo già citato prima perché insomma patria del magnifico gruppo dei Masai Warrior, che infatti hanno avuto anche modo di collaborare con vari esponenti del panorama roots reggae mondiale, penso uno su tutti ora Sandy. Dicevo, ci spostiamo a Bristol perché qua è nato un gruppo che è esordito al St. Paul's Carnival, che sarebbe, diciamo, la versione, il fratello minore più importante di tutti gli altri eventi legati alla cultura caraibica e in particolare giamaicana che si tengono in Inghilterra, oltre al già citato Notting Hill di Londra. E questo gruppo qua si chiama Masai Warrior ed è un gruppo che, insomma, vorrei dedicare questo pezzo che ci andiamo a sentire, che è Like a Warrior. Non so se ci stanno ad ascoltare, perché l'ora insomma inizia a farsi un po' tardino, però questo pezzo di Masai Warrior è con un grandissimo cantante che è Joseph Lalibela, merita assai. La voglio dedicare ai miei amici del Babylon, il posto di Giulia Agricola, dove vado a passare molte delle mie ultime serate, e con questi ragazzi qua ci siamo fatti forse i più belli festival dub degli ultimi tempi. A voi, Masai Warrior, Like a Warrior feat. Joseph Lalibela. Insomma, penso che a questo orario della notte, per tenerci un po' svegli, magari anche se si sta guidando, sia uno dei pezzi più adatti. Rimaniamo a Bristol, l'ultimo sound che andiamo a vedere in questo nostro viaggio per il lungo e largo, per il Regno Unito. Siamo andati insomma a fare una piccola panoramica dei sound system, che secondo me a questo momento rappresentano in maniera migliore la scena roots dub inglese, che ricordiamo rimane sempre una delle migliori al mondo. dicevo, rimaniamo a Bristol perché adesso andiamo a scoprire un altro sound molto famoso anche questo, ospite quasi fisso, non dico con una certa regolarità, della University of Dub, e questi qua sono i Kibir Lamlak, un sound che cerca di miscelare, diciamo, le più antiche sonorità legate al panorama roots, roots degli anni 70, 80, 60, con diciamo sonorità più legate a generi musicali che sono venuti dopo, ad esempio la dub e l'elettronica. Per farvi capire bene che cosa intendo, ci andiamo a sentire il pezzo Lion Step, che è uno degli ultimi pezzi pubblicati da Kibir Lamlak, che devo dire è un po' di tempo che non ho più sue notizie in fatto di serate. Lion Step. Con le sonorità molto molto roots dub dei Kibir Lamlak, io vi saluto e vi auguro la buonanotte, però insomma vorrei anche chiudere, perché insomma si è fatta una certa, è quasi l'una e mezza di notte, vorrei chiudere con un pezzo che è insomma Midnight Ravers di Bob Marley, quindi vi vorrei salutare così con questo bel carico di Positive Vibration. Io nella prossima puntata, in cui però ancora non so quando sarà, vorrò, cercherò di trattare, diciamo, del panorama dub attuale in Francia e in Italia, e poi insomma cercherò anche nella prossima puntata di darvi uno sguardo generale di questo genere di musica che sono spassionatamente innamorato. E niente, vi lascio con Bob Marley, buonanotte a tutti ragazzi, dal vostro Roberto, grazie mille per chi mi ha seguito, ci sentiamo presto. Bob, vai. Yeah.